Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Il tuo posto nel mondo. Probabilmente sai già che il mio lavoro è insegnare yoga. Tra l'altro, la settimana prossima sono 22 anni che lo faccio, anche se a me sembra molto meno, dico sul serio. Quello che non sai è che a me non viene spontaneo chiedere che lavoro fai la prima volta che incontro qualcuno o qualcuna. Gli elementi che mi incuriosiscono sono altri, ma mi rendo conto che per quasi tutte e tutti sapere che lavoro faccia una persona è un'informazione interessante che aiuta a inquadrare l'altro o l'altra, a sapere che posto occupa, per così dire. Comunque, a me con le persone appena conosciute succede questo. Che lavoro fai, Laura? Insegno yoga. E cosa fanno a questo punto loro? All'istante, la persona che ho di fronte tira le spalle indietro, trattiene il fiato e in alcuni casi raddrizza la testa. Insomma, cambia subito postura. Spesso aggiunge una frase tipo sto sempre curvo, curva, lo so che dovrei avere una postura migliore. E il concetto di postura in realtà ha pochissimo a che fare con i muscoli e invece moltissimo a che vedere con il nostro posto nel mondo. Non si tratta di irrigidire o potenziare i muscoli per stare dritte e dritti con la schiena. Postura è come occupiamo il nostro spazio, come ci relazioniamo con l'ambiente che ci circonda, come ci sentiamo, come respiriamo, come ci muoviamo, dall'interno verso l'esterno. Quando è nell'altra direzione, cioè quando forziamo una postura perché è così che crediamo di dover stare, come negli episodi che ti ho raccontato qui sopra, la postura che ci appiccichiamo addosso dura meno di uno starnuto. Vuoi provare insieme a me? Lì dove sei adesso, per favore, alzati in piedi. Raddrizza la schiena. Registra come ti senti e com'è il tuo respiro. Adesso sciogli la posizione muovendoti un po'. Fermati ancora e ascolta l'appoggio dei piedi a terra. Ascolta la solidità della terra sotto di te. Pensa al fatto che tu, in questo preciso momento, sei in piedi sulla faccia della terra. Come ti senti adesso? È cambiato qualcosa rispetto a raddrizza la schiena? Se sì, cosa? Dai, raccontamelo se vuoi. Mi fa sempre piacere ricevere i vostri feedback. Davvero. Per questo, oggi ti presento In Posizione Strategica, 4 incontri di yoga online per abbracciare la postura. Tutti i martedì di ottobre dalle 19.30 alle 21 in diretta o con la registrazione, che comunque resta a disposizione per tutte le persone iscritte per una settimana intera, cioè fino all'appuntamento successivo, scopriremo insieme che una postura buona è infinitamente meglio di una buona postura. Perché la postura buona è quella che amalgama sapientemente la potenza di alcuni specifici archetipi, il movimento e il respiro. E no, non dura meno di uno starnuto, perché è l'attitudine che cambia. Sentirci al nostro posto nel mondo, in ogni momento. Il percorso è ovviamente aperto ad ogni livello di esperienza con lo yoga. Scrivimi per partecipare. I posti sono limitati e se porti un'amica o un amico con te, avrete entrambe uno sconto di 15 euro sul contributo di partecipazione. Sei un insegnante di yoga anche tu? Allora per molte persone sei un punto di riferimento, colui o colei che mette impegno ed energia per sostenere il loro benessere. È importante che al di là delle tecniche che hai imparato al teacher training, tu possa guidare a partire dal tuo approccio autentico, attraverso la tua unicità, senza essere la copia di qualcun altro. Sarete più felici tu e loro. Se vuoi scoprire la tua autentica inclinazione insieme a me in un percorso individuale, contattami per fissare una telefonata esplorativa. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Alex Cousseau, dal suo Murdo, che apparentemente è un libro illustrato per bambini ed è una raccolta di piccolissime storie di Murdo, lo Yeti. Ma i libri per bambini non sono veramente solo per bambini, vero? Ho sempre sognato di portare la mia collezione di cactus a fare due passi in fondo all'oceano. Partirei in piena estate, quando fa più caldo. Io e i miei cactus saliremmo a bordo di un bel sottomarino. Ce ne staremmo all'asciutto, col naso incollato agli oblò. Quanta acqua, direbbero i miei cactus in tono ammirato. Quanta acqua! Forse il viaggio li farebbe fiorire. Altrimenti, per ricordo, comprerei a tutti un bel costumino. Un grandissimo abbraccio, Laura.